100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Solo pochi giorni fa sembrava tramontata l'ipotesi di modificare la riforma delle pensioni, invece sia Renzi sia il ministro Poletti hanno rispolverato le ipotesi di cui si era parlato. Anzi, Poletti ha detto chiaramente di lavorare insieme al Ministero dell'Economia per valutare opzioni e punti di equilibrio con l'obiettivo di introdurre meccanismi di flessibilità per andare in pensione con qualche anno di anticipo rispetto a quanto prevede la legge Fornero. Sono due le ipotesi sotto osservazioni e riguarderebbero l'uscita anticipata delle donne a 62-63 anni con 35 anni di contributi, a fronte però di una riduzione permanente della pensione, si parla del 3% circa di taglio per ogni anno di anticipo, e l'altra possibilità riguarderebbe i disoccupati senior, cioè quelle persone che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali ma sono troppo giovani per accedere alla pensione. Anche in questo caso si studia un meccanismo di uscita anticipata con taglio della pensione. Si parla anche dell'ipotesi di un prestito pensionistico, ovvero l'anticipo di una parte della pensione da restituire poi quando si raggiungeranno i requisiti per la pensione vera e propria. Naturalmente il problema vero resta il costo di queste misure, perché nel lungo periodo la flessibilità è neutra per i conti pubblici, ma per i primi anni bisogna trovare le risorse e bisogna soprattutto convincere l'Europa che non si sta mettendo in discussione la filosofia della riforma delle pensioni, che, non scordiamolo, deve garantire 80 miliardi di risparmi dal 2012 al 2021. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Agli automobilisti cambia poco, ma il caso Volkswagen continua a dominare la scena su tutti i giornali e le TV del mondo, e soprattutto in borsa, dove il titolo del colosso automobilistico Volkswagen, accusato di aver manipolato le emissioni su quasi 11 milioni di autovetture diesel, continua a precipitare in borsa. In due giorni ha perso quasi il 20%, scendendo al minimo degli ultimi 5 anni. In realtà il crollo poi è diventato generalizzato, trascinando a ribasso tutti i più importanti titoli del settore automobilistico, con Fiat che addirittura perde oggi il 6%, Toyota il 3%, Daimler il 6%, cifre che non si vedevano veramente da anni. Borse in fuga dai titoli dell'auto, insomma? Ma sicuramente lo scandalo dei diesel manipolati per ingannare i controlli delle autorità americane ha creato una nube nera di incertezza sui titoli delle case automobilistiche. Ma onore del vero, è stato proprio questo, il comparto, proprio quello dell'auto, a crescere di più in borsa negli ultimi tempi, grazie soprattutto non solo alla ripresa economica, ma alla forte ripresa delle vendite. In realtà, il vero problema della borsa è un altro, è che ci sia una generalizzazione molto forte sulla reale qualità del motore diesel. Il diesel, ricordiamolo, è stato uno dei principali delle principali tecnologie che ha permesso agli automobilisti di compensare, soprattutto in paesi come l'Italia, il caro benzina, con la possibilità di accedere appunto ai viaggi, di comprare automobili più economiche in termini di consumi. Che cosa fare dunque? L'importante è la raccomandazione che danno tutti di non generalizzare, di guardare veramente alla qualità dei motori e soprattutto di inquadrare il caso Volkswagen ancora come un caso aziendale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.